Portland Heights emergency. Yeah, can you please send rescue? I think I'm having an overdose at school with my wife. Overdose of what? Marijuana. Okay, how much did you guys have? I don't know. We made brownies, and I think we're dead. I really do. Spazio, estate, viaggi. Quinta puntata. Salta. Argentina. Estamos conectados con Espacio Estate. No sé si está bien o mal. Afuera está yo, viendo por tu culpa la nube las hace llorar. Yo buscando respuesta en el cielo. Peleándome por dentro. Espacio Estate. Spazio estate. E spazio estate. Spazio estate. Un programma Don Pierce sulla frequenza di radio. Radio Onda Adulto. Oh yeah, baby. Ciao, persona oscena. Mami. Si todo se te cae, creo que sabes a dónde ir. Una LA y una B in your mind. Mami, si todo se te cae, creo que sabes a dónde ir. Una LA y una B in your mind. Aunque ya casi nadie me vea como antes. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Quinta puntata della seconda stagione di Spazio Estate Viaggi, programma di intrattenimento culturale firmato Don Pierce. Un viaggio radiofonico attraverso il Sud America che vi terrà compagnia per circa un'ora e mezza. Questa puntata è stata registrata nello studio di El Poblado, Medellín, Colombia. State ascoltando Bien o Mal, titolo di questo pezzo e anche dell'ultimo album di Trueno, che è uscito lo scorso maggio. Come di consueto, prima di proporvi il sommario della puntata, apriamo la segreteria telefonica di Spazio Estate Viaggi. Eccovi qua. Spazio estate. Ehi Giacomo, caro, come va? Guarda, ero in riunione proprio al canale, ero su agli studi, abbiamo finito la riunione adesso. Guarda, ho ascoltato ieri, proprio ieri, l'intervista. Ho avuto giornate un po' piene, non sono riuscito a farlo prima e ti volevo comunque dire grazie. E l'intervista, insomma, non solo l'intervista, secondo me tutta la puntata è molto bella da sentire, insomma, sia nella fase di preparazione del viaggio che poi nel racconto di noi e nella parte anche, insomma, un po' più esplicativa su Rodolfo Walsh alla fine. E quindi no, vabbè, io sono rimasto molto contento. Devo dire che il capitolo, il pezzo in sé, secondo me è stato veramente fatto bene e sono contento che sia piaciuto, che sia interessato a compagni in Italia. E quindi no, dai, grande, mi fa piacere che ci abbiamo creduto e l'abbiamo fatta. Poi sono curioso di sentire come proseguono gli altri episodi. Ti ascolto volentieri, gran lavoro e avanti così. Ciao Giacomi. Salgo hace tiempo, tú dime dónde estás. vado a fare la minestra che sarà un disastro, ma lo mangerei lo stesso, perché le regole sono così, quello che si cucina si deve mangiare. Ma prima di partire voglio dirti, ho sentito 3 puntate di quelle 5 che tu dici, mi sono piaciuto tantissimi, poiché mi sembra che culturalmente sarà una bella scoperta per gli europei e per il tuo pubblico, diciamo, principalmente che vuole sapere cosa è viaggiare e vuole sapere cosa è Latinoamerica, e c'è un bel sguardo abbastanza prolisso, non so come dirlo, obiettivo. E poi la letteratura bellissima pure che noi abbiamo, sono orgoglioso della nostra letteratura. Ti saluto e un abbraccio grande, Giacomo, stai bene? Grazie per le informazioni e per farmi sapere come stai. Sulle note di Carol G, Provenza, che dedichiamo a tutti quelli e quelle che ci ascoltano dalla Francia, torniamo in studio. Ne approfittiamo per ringraziare Andrea Preselo, Bruno Elisandro da Rosario, Manu l'Argentino di Bruxelles, Nico Ambro, Serena e Margherita per i messaggi che ci hanno spedito questa settimana. Continuate a scriverci, a mandarci messaggi vocali sulle pagine Facebook e Instagram donpairs.it, sulle quali troverete anche le storie e i video del viaggio in bici. Passiamo ora al sommario di questo 5° episodio di Spazio Estate Viaggi. Nella prima parte riprenderemo con il racconto del viaggio in bicicletta di Giacomo, che avevamo lasciato a Salta, Argentina, dove è arrivato qualche ora prima dell'inizio delle manifestazioni per l'8 marzo. Vi racconteremo dei cortei, degli incontri avuti in questa città e dei movimenti femministi tra i più radicali conosciuti durante il viaggio. Nella seconda parte di Spazio Estate Viaggi andrà in onda la prima intervista registrata nella città di Salta con Veronica Ardanas, poetessa, editrice indipendente, manager culturale, documentarista e lottatrice per la difesa delle diversità culturali e ambientali, oltre che presidentessa della Fondazione Culturale Cebil, della quale ci parlerà oggi. E come di consueto, anche in questa puntata, nella terza parte, la rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano sulla cultura dell'America Latina. Nella rubrica di questa puntata, Mirko ci parlerà di Roberto Bolaño, poeta e romanziere cileno in permanente autoesilio. Ha vissuto prima in Messico, dove ha fondato un movimento poetico d'avanguardia chiamato Infrarrealismo, e poi in Spagna, a Blanes, dove ha portato alle estreme conseguenze l'arte del romanzo totale, scrivendo opere che sono già imprescindibili per la letteratura del XXI secolo, come I Detective Selvaggi e soprattutto 2666. Ancora un po' di musica, poi inizierà la prima parte di Spazio Estate Viaggi. Torna su Radio Onda d'Urto il Sudor Gay, Sudor Marica con Tita Print, Vivas y Furiosas. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpo la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio, Radio Onda d'Urto. Buon ascolto, Radio, Radio Onda d'Urto. Nell'ultima puntata di Spazio Estate Viaggi vi ho raccontato dei giorni precedenti il mio arrivo nella città di Salta. Come vi dicevo, sono stati giorni di pedalate molto duri. Inizialmente per il calore insopportabile della regione di Santiago dell'Estero e Tucumán. In un secondo momento a causa dei primi dislivelli clamorosi percorsi in bici. Infatti ho cominciato a salire la cordigliera andina, dalla quale scenderò 2.000 e 3.500 km più tardi. Le prime salite sono state durissime. La bellezza e la diversità dei paesaggi però hanno ripagato gli sforzi. Inoltre le nuove amicizie contribuiranno a far sopportare la fatica e ad accompagnare qualche giorno di riposo per rilassare i muscoli. Vi ho raccontato della chacarrera, musica popolare tradizionale di questa zona dell'Argentina, famosa in mezzo Sud America e a mio avviso particolarmente stimolante. Il mio racconto di oggi ricomincia qualche chilometro prima di Salta. Sono Giacomo, cicloviaggiatore inesperto. Ho deciso di partire in bicicletta da Buenos Aires a inizio febbraio. Non sapevo dove sarei arrivato. Dopo 3 mesi e 5.000 km sarò a Lima. Nella scorsa puntata non ho fatto a tempo a raccontarvi di Robert, un cicloviaggiatore che ho incontrato qualche chilometro prima di arrivare a Salta. Mi trovavo nei pressi di La Vigna, piccolo paesino agricolo ubicato a 75 km a sud di Salta. Robert viaggiava in direzione contraria rispetto alla mia, verso sud. Quando si incrocia qualcuno che viaggia in bici, ci si ferma sempre. Il bello di questo tipo di sport, legato al viaggio, è che non c'è nulla di competitivo. Questo fa sì che il rapporto con i cicloviaggiatori e le cicloviaggiatrici sia sempre cordiale e curioso. Ci si scambiano consigli di viaggio, suggerimenti su dove piazzare la tenda, dove mangiare, dove trovare acqua o anche dove incontrare gente simpatica. A volte ci si aiuta con delle piccole riparazioni, si scambiano pezzi della bici, come per esempio le toppe per riparare le camere d'aria, che non sono esattamente reperibili ovunque, specialmente nei micro paesi a migliaia di metri sopra il livello del mare. Robert viaggia da Lima con una bici molto modesta, ma capisco subito che è un duro. Chiacchieriamo 5 minuti, lui ha fretta di ripartire. ha già percorso quasi 700 km. Mi racconta che in Perù, quando è partito, pioveva sempre. Inoltre, mi avvisa che la parte più dura sarà la Bolivia. Non scorderò mai quelle parole, perché qualche centinaio di chilometri più tardi, le Ande boliviane mi faranno irrigidire per bene i muscoli. Con Robert ci scambiamo i contatti, poi non ci risentiremo per un po'. Non sapevo ancora che, alla fine del mio viaggio, avrei passato quasi 3 settimane in un quartiere popolare di Lima, Santa Anita, a casa della mamma e dei fratelli di Robert. Ma questo ve lo racconterò nell'ultima puntata. Saluto il mio nuovo primo amico peruviano e riparto. Non sono più in alta quota, scendo di molto, ma rimango comunque ad un'altitudine media di poco più di 1000 metri sul livello del mare. Prima di arrivare in città, penso alla strada che ho fatto fino ad ora. Quasi 1600 km in meno di un mese. Avevo deciso che se fossi riuscito ad arrivare a Salta, da Buenos Aires, avrei potuto dichiararmi più che soddisfatto. Forse mi sarei fermato. Ora però, che sono quasi arrivato, sto già pensando alle prossime mete. Non ho nessuna voglia di smettere di pedalare. Oramai, quasi sicuramente, seguirò la strada che porta nell'ultima provincia del nord-est argentino, Jujuy, e poi entrerò, credo, in Bolivia. Lungo la strada che arriva a Salta, penso anche a ciò che non ho visto, per vari motivi. Tra i diversi posti che rimpiango di non aver visitato, c'è San Miguel de Tucumán. Non è stata una scelta dettata dalla logistica. Il viaggio in bici, infatti, come la vita, è fatto di scelte. Chiaramente, prima di decidere di percorrere un certo itinerario, bisogna accertarsi di avere le forze, delle pendenze, delle distanze, della qualità delle strade e anche di altre cose. Non è come viaggiare in moto o in auto che permette di percorrere diverse centinaia di chilometri in un giorno. Non sono passato da San Miguel de Tucumán non per motivi logistici, ma poiché un camionista della zona me l'ha fortemente sconsigliato per motivi di sicurezza. Già, la sicurezza è un altro tema del viaggio. Personalmente non ho molto da temere. Non ho molti contanti, non ho quasi nulla di veramente prezioso, se non forse una catenina o un orecchino d'oro. Il telefono, che però è assicurato contro il furto, e naturalmente la bicicletta, il mio bene più prezioso, che però nessuna compagnia si azzarda ad assicurare per un viaggio del genere. Non ho paura di essere da solo, ma tengo comunque abbastanza in conto i consigli di chi conosce le località che sto percorrendo. Le preoccupazioni di amici, amiche e familiari, nonché le raccomandazioni che mi vengono fatte riguardo la mia sicurezza, anche da persone che vivono in loco, sono tuttavia, a mio avviso, sempre esagerate. L'idea che ci sia sempre qualcuno dietro l'angolo che ti voglia fregare, io non l'ho mai accettata. Parto sempre con un atteggiamento di fiducia quando conosco persone o luoghi nuovi. Poi so bene che in certi luoghi, a partire da certe zone di alcune città italiane, bisogna stare particolarmente all'occhio. Non sono uno sprovveduto e non sono nemmeno più un ragazzino. Negli scorsi anni ho viaggiato inoltre, per lavoro, in zone di guerra o di conflitto latente. Di conseguenza, per piacere del viaggio in bici, ho scelto luoghi relativamente calmi. L'Argentina, mi dico, non è certo paragonabile all'est della Repubblica Democratica del Congo, o al Burundi, o all'Etiopia, o alla Bosnia-Herzegovina. E quindi mi sento tranquillizzato dalle mie esperienze pregresse, senza però abbassare il livello di guardia. Ho Ripenso spesso alle parole della mia grande amica Giulia, con la quale avevo cenato a Verona qualche giorno prima di partire per Buenos Aires. Lei non conosce il Sud America, però mi fece moltissime raccomandazioni prima di partire e anche delle domande alquanto bizzarre. Per esempio, mi chiedeva cosa avrei fatto se qualcuno, coltello alla mano, mi avesse obbligato a prelevare del denaro. Oppure, come mi sarei comportato se mi avessero rubato la bici. Giulia, la conosco, non è paranoica, solo si preoccupava realmente per me. Non sono stato incurante delle sue preoccupazioni, sono sempre stato abbastanza prudente. Ora però, col senno di poi, ci rido sopra. Se qualcuno mi avesse obbligato a prelevare, gli avrei dato quei pochi soldi che posso ritirare dalla mia banca in un giorno all'estero. Non mi avrebbe rovinato la vita. Se mi avessero rubato la bici, beh, avevo promesso alla mia bici che non l'avrei mai lasciata senza catena in mia assenza, e così è stato. In caso di furto, mi sono detto che ci avrei pensato al momento opportuno e che comunque non sarebbe stata la fine del mondo, per quanto la perdita economica e sentimentale sarebbe stata alquanto rilevante. Anche altre persone sul posto mi hanno messo in guardia tante volte durante il viaggio. La cosa che non mi tornava è che queste persone mi prevenivano sempre su altri luoghi. Dove vivevano loro andava sempre tutto bene. E quindi a Buenos Aires mi mettevano in allerta riguardo alla città di Rosario. A Rosario su Santiago del Estero, a Santiago su Tucumán, a Salta sulla Bolivia, in Bolivia su quegli scuri di pelle di classe sociale più bassa che abitavano più lontani da dove mi trovavo. In Perù, a Cusco, mi avvisavano che era Lima la città più pericolosa e via dicendo. Capisco che un minimo di rischio di subire qualche furto c'è. Ma quindi? Rinuncio al mio viaggio? Resto nella mia bolla di sicurezza a casa mia, sulle sponde del Garda, dove non succede quasi mai nulla, per paura di qualche furto? Ovvio che no. Piuttosto rifletto un po' sull'eventualità di mettere a repentaglio la mia incolumità svolgendo il mio lavoro di attivista sociale e giornalista. Mi rassicuro ugualmente. Sto facendo delle interviste in paesi relativamente democratici e violenti, ovvero Argentina, Bolivia e Perù. Non sono i posti del Sud America dove, in questo momento, viene presa maggiormente di mira la società civile o la stampa. Non farò interviste in paesi come Colombia o in Messico, dove migliaia sono i cadaveri di chi ha provato a costruire una società più giusta. Quindi davvero non mi faccio prendere dalle paranoie securitarie e parto per il mio viaggio. Alla fine, ma non ho cantato vittoria fino a quando non sono arrivato a Lima, non mi succederà nulla. Trovo solo persone che mi vogliono aiutare, che mi incoraggiano, che mi offrono una bottiglia d'acqua o una birra, o che al massimo mi chiedono gentilmente dei soldi per strada o qualcosa da mangiare, ma nessuno oserà toccare né me né tantomeno la mia amatissima bici Rosso Doge. A pochi chilometri da Salta accelero. Sono le 3 del pomeriggio dell'8 marzo 2022. Ho fretta di arrivare in città perché alle 18 inizia la marcia, la grande manifestazione transfemminista in una delle località più conservatrici, cattoliche, patriarcali e razziste di tutto il paese. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Sono eccitatissimo. Anche io ho voglia di gridare la mia rabbia verso un sistema maschilista che non mi rappresenta, che mi accorgo sta combattendo anche contro i miei interessi diretti. Un sistema del quale non sopporto più di sentire le notizie che produce, le storie che racconta, le giustificazioni e le scuse ridicole che blatera quando succedono i femminicidi o si uccidono le diversità. Un sistema patriarcale, violento, totalmente funzionale al capitalismo, basato su sfruttamento dei più deboli e delle più deboli. Un sistema disuguale nel quale i forti, anche quando sono scemi, cercano di imporsi, di far valere idee retrograde, degradate e addirittura reazionarie. In sostanza, un sistema che serve per perpetuare il potere di chi lo detiene, riproducendo logiche antiquate. Arrivo a Salta verso le 16. Ho 2 ore di tempo per cercarmi un alloggio e parcheggiare la bicicletta prima che inizi il corteo. Gli ostelli e gli alberghi economici sono già tutti pieni. Oltre che ad essere una città a forte vocazione turistica, evidentemente, Salta ha attirato numerosi e numerose manifestanti da fuori città. Alla fine trovo una locanda, non proprio economica ma confortevole, proprio a 2 passi da Plaza 9 de Julio, dove è prevista la partenza della marcia. Alle 18 la piazza è strapiena. La città conta circa 500.000 abitanti, ma la lunghezza del corteo e la densità della piazza mi fa pensare che la partecipazione è davvero sentita. Inizio subito a registrare gli slogan che sento. Come immaginavo, la radicalità dei messaggi dei movimenti transfemministi in questa parte di Argentina è sorprendente. I gruppi partecipanti al corteo non sono certo omogenei. Alcuni sono più legati ai sindacati o ai partiti, ma pochissime sono in realtà le bandiere portate in piazza a rappresentarli. Alcuni altri gruppi sono interamente al femminile. Sono soprattutto quelli in testa al corteo, legati a Nuna di Meno e ad altri gruppi femministi locali. Non è permesso agli uomini di stare nelle prime file della manifestazione. Questo, mi spiegano, per non togliere visibilità alle donne e alle altre diversità alle quali questa giornata di lotta è dedicata. Forti gli slogan e i canti contro le istituzioni, in particolare la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Davanti alla cattedrale di Salta si urla agli ecclesiastici che se vogliono infilarsi nei letti dei manifestanti e delle manifestanti, ovvero influenzare le loro scelte sessuali e di vita, dovrebbero prima diventare trans, lesbiche, prostitute. Il canto di piazza termina poi con un inno all'aborto legale. Cattolica apostólica romana, que se quiere meter en nuestra cama, les decimos que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas. Aborto legal, Si passa anche davanti alla stazione centrale della polizia. In questo frangente, diverse decine di manifestanti iniziano a lanciare uova riempite di vernice rossa, che simboleggia il sangue prodotto nelle caserme dalla violentissima polizia argentina. Moltissimi sono i casi di violenza sessuale delle quali le forze dell'ordine sono state responsabili o complici. Si urla: lo sapevo che gli stupratori sono protetti dalla polizia. Infine, davanti al palazzo comunale, tutto si conclude con un semplice messaggio contro le istituzioni e che esprime, a mio avviso, l'idea di una buona parte della piazza. Passami la benzina. Passami la benzina.

E questo è stato davvero un percorso affascinante, un percorso in cui la lotta si è intrecciata con la scoperta di sé. Abito in una regione affascinante, una regione che guarda al mondo andino, al mondo chaqueño, al mondo guaranitico, una regione con una profonda storia coloniale, fra l'altro. Forse è il terreno più interessante per iniziare a scoprire noi stessi, questa diversità che siamo, non solo a partire dalla quantità di popoli che abitano questi luoghi, ma soprattutto dalla mia condizione di donna a partire da questa diversità, da questa dissidenza che uno si porta sempre dietro e che si scopre mano a mano attraversando il territorio. Il lavoro come editrice indipendente è sostenuto a partire dagli anni 90, perché il mio lavoro inizia molto tempo fa, già dagli anni 90, quando tutte le case editrici in Argentina chiudevano a causa del neoliberismo che qui ha colpito molto forte. È stato quasi come un laboratorio per il resto del mondo. Qui la creatività, la poesia e l'amore sono stati sempre presenti. Sono stati la forma per mezzo della quale abbiamo potuto sostenerci fino ad ora. E abbiamo creato modi molto originali per andare avanti, perché la nostra parola non venisse silenziata, ecco. Nel mio caso ho creato una casa editrice indipendente, Empapelarte. Ho partecipato a tutto il movimento delle case editrici indipendenti negli anni 90 e si incontravano i gestori, gli artisti, poeti, scrittori per iniziare a essere noi stessi gestori culturali, perché già non si poteva. Allo Stato non interessava per nulla appoggiare tutto ciò e quindi abbiamo iniziato noi a lavorare sulla gestione. Così ci siamo scoperti in una gran varietà di sfaccettature e ci siamo trasformati in qualcosa di totalmente nuovo per la cultura argentina. Cioè abbiamo creato il nostro proprio spazio di produzione, il nostro spazio di visibilità, in modo che le voci e le immagini potessero uscire, andare avanti. E in questo cammino, come poetessa ed editrice indipendente, ho incontrato anche altre realtà sociali. Abbiamo fatto molto lavoro sociale attraverso la poesia, l'arte, il cinema. E in questo cammino ho incontrato come un affratellamento dell'anima, in questa dissidenza, nella forma in cui uno guardava al mondo. Mi incontro con i popoli originari del mio paese, che sono sempre stati rinnegati, dimenticati, assenti, sia dalla cultura che dai mezzi di comunicazione che dalla politica. E in questo viaggio di scoperta mi sono incontrata con loro e ho iniziato una nuova tappa del mio lavoro che li include, articolandosi con molte comunità del nord-est argentino e del sud della Bolivia. Un lavoro bellissimo, in cui si include la poesia e soprattutto il documentarismo. Ho creato molti documentari, dando visibilità, voce, organizzando laboratori perché loro stessi potessero esprimersi, esprimere la loro realtà, la loro maniera di vedere il mondo attraverso l'arte audiovisuale e la poesia. Quindi vado avanti con questo compito, includendo, grazie all'arte e al cinema, tutta questa realtà diversa, perché sono convinta che solo a partire da questa diversità potremo creare un mondo differente, con più equità, con più sensibilità, una sensibilità diversa rispetto al tema ambientale. Ho lavorato anche in una prigione, perché quando uno lavora in questo tipo di cose inizia a sviluppare una certa facilità nell'individuare dove si trova la marginalità, no? La donna è marginale, 20 anni fa lo era molto di più e per il mio modo di vedere le cose io non avevo praticamente interlocutori. Però abbiamo continuato a tessere questo cammino e adesso abbiamo un'associazione consolidata che è la Fundación Sebil, che non lavora sola ma in articolazione con molte comunità e molti altri organismi. Quali sono le principali ragioni che hanno portato alla nascita della Fondazione Sebil? Quali sono i principi su cui si basa e qual è la missione che ispira il suo lavoro? Bueno, Sebil nasce nel 2009 justamente con dos herramientas que a nosotros nos sirvió mucho como para empezar a trabajar. D'accordo. Sebil nasce nel 2009 grazie a 12 strumenti che ci sono serviti molto per iniziare a lavorare come organizzazione formale, per poter avere più impatto, più forza. Uno di questi strumenti è la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, varata nel 2006, che forniva un aiuto chiarissimo per difendere l'intuizione che avevamo. Noi sapevamo molto bene che se non avessimo difeso la nostra diversità culturale, non avremmo potuto difendere il territorio dal disboscamento tremendo che c'era in questa zona. Salta, la provincia dove vivo, presenta la maggior diversità culturale e la maggior diversità biologica del paese. E non è un caso che ci siano entrambe queste diversità. Quindi c'è una relazione diretta. E questa convenzione, che lo dice chiaramente che non possiamo avere un mondo sostenibile in futuro se prima non difendiamo la diversità culturale. Perché questa diversità ti fornisce un'altra forma. Un'altra economia, un altro modo di concepire madre natura, un altro modo di concepire il tuo corpo, una maniera diversa di consumare, di organizzarti. Questa diversità ti dà un altro modo di uscire da quello che io chiamo monopolio del pensiero dell'economia, da questo patriarcato che omogenizza tutto, da queste nuove maniere di colonizzarci. La fondazione nasce con questo strumento. Poi, nel 2009, la Bolivia convoca un foro mondiale per difendere i diritti soggettivi, i diritti della madre terra come soggetto del diritto. La Bolivia è stata molto importante per noi. Siamo molto vicini alla Bolivia e si tratta di una zona importante per tutta la cosmovisione originaria andina, che propone esattamente questo: la madre terra come soggetto del diritto. Questo è una rivoluzione culturale. E uscire però completamente dalla cornice del diritto romano. Per incorporare la madre terra come soggetto del diritto è necessaria una trasformazione profonda a partire dalla cosmovisione di tutte le componenti dello Stato e anche della forma in cui concepiamo a noi stessi e le nostre relazioni con il corpo, con le piante, con l'acqua, con tutto. Quindi mi sono affacciata a questa rivoluzione culturale e ciò che fa la Fondazione è esattamente questo: creare questo vincolo, difendere, integrare e svelare l'importanza di difendere la diversità culturale per poter difendere i nostri territori e la loro diversità biologica, costruire una nuova sensibilità, una nuova cosmovisione. La Fondazione è impegnata in questo lavoro e il nome della Fondazione Sebil è un albero molto speciale, è un albero che cammina. E uno potrebbe dire: come un albero che cammina? Eh sì, è un albero che cammina. Perché da migliaia di anni i semi di questo albero si utilizzano in modo rituale molto prima dell'arrivo degli spagnoli in America. Questi alberi crescono nelle zone di foreste, nelle cittadine vicine alla selva. Si raccoglievano questi semi e si camminava con essi. Ed erano i benvenuti in diverse località. Non in paesini della selva, ma zone della valle, delle Ande, della Puna, della montagna. Li ricevevano perché questi semi erano semi rituali che permettevano di unificare popoli in una visione spirituale molto intrecciata alla profondità della madre terra. Sono semi che sanificano, che intrecciavano l'uomo alla terra a un livello molto profondo e univano la diversità delle persone in zone diverse. Questi semi si trovavano in luoghi cerimoniali di tutti i popoli, in tutte le zone di qui, in molti paesi, dal Messico fino a qui, e anche più a sud in ambienti differenti. Quindi sono il simbolo per eccellenza della diversità, e non solo della diversità, perché gli uomini si riunivano intorno a un albero. E per questo è l'albero che cammina, perché quest'albero viaggiava creando una visione diversa del mondo. Questo per noi è un concetto, perché come Sébil è l'albero che cammina, così la Fondazione Sébil si propone la transumanza culturale, che è un concetto importante, nato negli anni 90, è un momento in cui tutti cercavamo di reinventare il mondo per sostenerci contro il neoliberalismo. Allora è nata una università che si chiamava Transumante, che proponeva esattamente di uscire dai centri e andare verso le periferie, uscire dal comodo e andare alle periferie, fare questa transumanza, andare verso questa terra fertile che aveva bisogno di nuovi semi per poter essere ricostruita di nuovo. Non potevano studiare perché non potevano per la questione sociale, quindi arrivavamo con talleri di arte. Quindi abbiamo fatto molto lavoro sociale in questa transumanza, nei quartieri dove c'erano i ragazzi che già non potevano studiare per questioni sociali, e arrivavamo con laboratori artistici e lì lasciavamo i semi di arte perché germinassero di nuovo la speranza, l'inclusione. La stessa cosa l'abbiamo fatta con le comunità indigene. Una caratteristica della nostra associazione è che viaggiamo molto, perché pensiamo che di questo si tratta, di uscire dal tuo posto comodo, dal centro, e scoprire altri luoghi, altre forme, e lavorare così, in questo modo, a partire dalla diversità. Transumiamo molto, per questo siamo come l'albero Sébil, semi che camminano. Hago un intercambio di domande. Seguimos con il marco teorico conceptuale. Perché è importante integrare la difesa dell'ambiente, la diversità culturale e l'inclusione sociale? Eso para nosotros es como un marco de principios, ¿no? Que primero empezó como una intuición. Ok, questo per noi è come una cornice di principi. All'inizio era solo un'intuizione, sicuramente aveva a che fare con l'ecofemminismo. 20 anni fa non si parlava di ecofemminismo, no? È stata un'intuizione personale, l'ho sviluppata come poeta, con la mia sensibilità di donna, con la sensibilità che mi offre il fatto di vivere qui, nella natura, in un monte di popoli nativi. La Fondazione Sébil si trova in uno spazio di giungla, un po' per proteggerci, abbiamo fatto la sede come per occupare il territorio per la difesa ambientale. Molti lavori per la sede sono stati di difesa ambientale del fiume, degli alberi, contro il disboscamento del territorio. Quindi abitiamo questo spazio magico, sacro di Madre Natura, con i suoi alberi nativi, i suoi uccelli, le sue fonti. A partire da questa intuizione mi sono resa conto che dobbiamo uscire da questo monopolio della ragione, per cui sembra che esista una ragione unica, un'unica forma di vedere il mondo. I mezzi di comunicazione di massa riproducono tutto ciò e generano questa colonizzazione mentale, emozionale della sensibilità, creano stereotipi, soprattutto creano una cultura unica. E questa cultura unica, quello che ha fatto, è stato saccheggiare l'ambiente, disequilibrare tutte le relazioni che esistevano anticamente tra l'uomo e la natura, ha generato squilibri sociali. Queste imposizioni di forme e norme, questo monocoltivo che non è solo agricolo, ma anche economico, sociale, culturale, mediatico. Ciò che propone a partire dalla diversità culturale è che esistano altri modi di vedere il mondo che sono reali, altre economie, altre maniere di relazionarci tra esseri umani e natura, altri linguaggi che non sono necessariamente la parola. Noi viviamo in un mondo in cui è centrale il libro, la parola. Adesso la cultura dell'immagine, che magari fosse sul serio una cultura, in realtà è un'immagine molto manipolata. Proponiamo di avvicinarci ad altre culture, ad altre comunità. Qui ci sono molte culture originarie, 11 culture native qui, proprio dove vivo. E quando uno convive con loro inizia a vedere che esistono altre realtà meravigliose, magiche, uso questa parola che è molto abusata, però sono veramente magiche. Esistono altre psicologie, altri modi di vivere la vita, di concepire la vita. E in questo momento sono tutti molto importanti, sono modi di uscire da questa crisi che stiamo vivendo a livello mondiale, per cui le leggi ambientali già non sono sufficienti, e lo sappiamo che non sono sufficienti. L'educazione ambientale non è abbastanza. È necessario un passo in più, e questo passo in più è vedere veramente il mondo da un altro posto. E io credo che queste comunità che sono allontanate nella periferia, dove quasi nessuno va, hanno chiavi fondamentali per iniziare a vederci in relazioni differenti con la madre terra, con la nostra forma di consumare, con il nostro modo di essere, con il nostro modo di relazionarci a tutti i livelli. Riconoscere un mondo che è molto più vasto del materiale, del mentale. C'è un mondo veramente infinito. Esiste. E dobbiamo imparare a relazionarci con lui. Questa è un po' la cornice che lega la fondazione con il mondo. Ese sería el marco un poco de esa vinculación. Dunque, torniamo a parlare della Fondazione Seville. Voi avete uno spazio in cui si sviluppano le attività della Fondazione. Quindi, per favore, mi parli un po' di questo spazio e delle principali attività che la Fondazione propone. Quali sono le principali attività che propone la Fondazione in questo spazio? Bueno, en este espacio proponemos que las personas hagan una experiencia de... Bene, in questo spazio proponiamo alle persone un'esperienza di profonda sensibilità con Madre Natura e un incontro con i popoli originari. Noi abbiamo articolato il nostro lavoro da molti anni, da prima della nascita della Fondazione, con diverse comunità. La sede è la loro casa. Quando devono venire a Salta per progetti, per portare la loro arte ancestrale, per molte cose di cui hanno bisogno, se devono venire in città, questa è casa loro. Quindi è uno spazio che offre residenza creativa per tutti coloro che vogliono venire a fare questa esperienza di una diversa visione del mondo. Abbiamo una biblioteca specializzata in questi temi: poesia, cultura latinoamericana, popoli indigeni. Abbiamo uno spazio di esposizione permanente di arte Wichí, creata dopo molti anni di lavoro con le comunità. Sarà la prima mostra di arte Wichí per difendere la propria origine dal saccheggio che interessa quest'arte, perché spesso viene la gente della città a comprare le opere d'arte a prezzi ridicoli. In questo modo loro, grazie alla mostra che stiamo facendo, possono difendere la loro cultura, la loro propria economia, il lavoro delle donne, e preservare una visione che sia vincolata con la cultura della madre natura, della madre terra. Tutta l'arte che fanno è spirituale ed è collegata a questo. Quindi è tutto uno spazio di sperimentazione creativa, di sensibilizzazione. Organizziamo molte lezioni e laboratori papel arte, visione indipendente, colloqui con diversi attori della comunità nativa. Abbiamo tutta una serie di documentari che possono vedere. E abbiamo un orto organico di piante medicinali. Serie de documentales también para que puedan disfrutar y sobre todo a huertas. Viviamo poeticamente e crediamo che non si tratti solo di un aspetto della vita, sono tutti gli aspetti della vita. Il fatto è che uno impara tutte queste attive pratiche, la monocultura, la colonizzazione che ha interessato tutto il pianeta. Ecco, qui uno disimpara tutto questo e impara ad ampliare la sua mente rispetto a una gran quantità di cose, tra esse l'alimentazione, la comunicazione, il modo di vivere il tempo, il modo di connettersi coi sogni, i sogni onirici e i sogni del cuore, il modo di ascoltare e ascoltarsi. È uno spazio per sperimentare tutto ciò per mezzo di vari laboratori o semplicemente venendo qui a fare l'esperienza. Ecco quindi, benvenuti a tutti. Diversos talleres o simplemente personas que quieran ir a hacer la experiencia, ¿no? Así que bueno, bienvenidos todos. Sì, ecco, forse è il caso di spiegare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che lo spazio non si trova in città, però è in campagna, giusto? campo, ¿eh? Claro, es en el campo, estoy pasando el río enfrente, frente al río Vaqueros. È chiaro, è nei campi, siamo di fronte al fiume Vaqueros. Questo è un monte nativo, ci sono foreste del pedemonte. È interessante perché si tratta di una selva di transizione tra la vera e propria foresta e le valli. Per questo è presente una gran biodiversità. Si possono vedere i tucani, e però in inverno fa freddo. Si tratta di un clima molto speciale che comprende una gran diversità di climi. Ci sono specie di tutti i tipi. Viviamo giusto sul fiume, lo stiamo difendendo con tutte le forze, non solo la nostra organizzazione, ma anche articolandoci con altre entità e con i vicini residenti, perché noi siamo convinti che il lavoro va articolato o non funziona. Il lavoro è una rete, altrimenti non si potrebbe sostenere nel tempo. Abbiamo molto lavoro volontario, abbiamo vinto un premio nazionale per il volontariato. Il fatto è che noi lavoriamo in qualsiasi cosa e il mondo istituzionale ci serve come strumento di gestione. Noi non viviamo di questo lavoro, autogestioniamo tutto e abbiamo altri lavori, però siamo convinti che è lo strumento che manca. Ci sarebbe bisogno di molta più organizzazione, il cittadino dovrebbe organizzarsi molto di più per trasformare lo Stato, gli Stati, che nel mondo sappiamo che non stanno funzionando. Io credo che l'unico modo di cambiare tutto ciò è costringere lo Stato a negoziare con la società organizzata. È lo che io credo, perché già è un cammino di vita, no? E, bueno, también algo che non conté è che trabajé en las cárceles con proyectos de. Una cosa che non ho raccontato è che ho lavorato in alcune carceri con vari progetti e abbiamo creato un progetto culturale aperto in carcere che continua a funzionare anche se già non stiamo lì, perché adesso stiamo concentrando il lavoro con le comunità native perché c'è un gran disboscamento in questo momento ed è necessario lavorare lì. Però in un certo momento, a seguito del boom del neoliberalismo, le carceri si erano riempite di giovani. Purtroppo, per la condizione sociale terribile, molti giovani si sono visti nella situazione di infrangere la legge, giovani che non avevano portato a termine la scuola dell'obbligo. Ecco, io ho lavorato 5 anni, ho creato un programma per l'inclusione sociale attraverso l'arte. È un ambiente un po' folle, però abbiamo trasformato molte cose e siamo riusciti con questo lavoro, anche appoggiandoci ad altre organizzazioni, anche di altre parti del paese, creando una gran rete di organizzazioni. Siamo riusciti a ottenere una legge nazionale di educazione in contesto carcerario perché le persone private della libertà possano studiare e completare i propri studi e grazie a questo gli si tolgono anni di pena. E riconoscere il ruolo che hanno la cultura e l'educazione per l'inclusione. Noi siamo sempre stati convinti di questo. L'abbiamo visto nei contesti dei più vulnerabili, dei più difficili. Abbiamo visto che la poesia trasforma. Forse sembra una frase un po' naif o utopica, però no. Io questo lo so perché l'ho visto lavorando in contesti così difficili. Ecco quindi, poeta fino alla morte. Veronica Ardenas della Fondazione Culturale Sebil di Salta, poeta fino alla morte, vorrebbe aggiungere qualcos'altro prima della conclusione di questa intervista? Bueno, primero è felice questa intervista perché bueno, tengo ancestros italianos, así que es algo muy emocionante para. Innanzitutto sono molto felice per questa intervista, anche perché ho antenati italiani e tutto questo è molto emozionante per me. Poi vorrei dire che è tempo di rinforzare il sogno, connetterci con il cuore, fare un patto con il nostro cuore. Sappiamo che le cose non vanno bene, sappiamo che dipende da noi e che dobbiamo farlo. Vorrei darvi molta forza, molta speranza, molto coraggio. So che trasformeremo il mondo, so che le piccole azioni articolate, intrecciate trasformano, che le azioni fatte davvero col cuore sono quelle che trasformano. Ecco, semplicemente questo. Trasformare il nostro cuore in una bussola per i nuovi tempi, per il nuovo mondo che è già qui. Abbiamo molti strumenti, io avevo tra i 20 e i 25 anni quando ho iniziato ed ero molto sola, ero in un deserto, come poeta avevo sempre presente l'immagine di un deserto. Erano molte poche le persone che potevano guidarmi e aiutarmi a capire che questa intuizione del cuore, della poesia, dell'arte, dell'inclusione sociale avrebbe potuto funzionare. Adesso, dopo tutto questo tempo, dopo aver visto vari risultati, adesso che abbiamo tutti questi strumenti, che siamo molti di più, ci sono nuove generazioni che si aggiungono a noi. Adesso che uno sente che siamo tantissimi, possiamo dire che tutto questo deve funzionare. Sì o sì? Da questa prospettiva storica, con i miei 56 anni, mi sento come se ne avessi 25, con la stessa forza, la stessa passione, lo stesso spirito. Mi riempie di allegria vedere che siamo sempre di più. Questo, il messaggio deve essere di raddoppiare gli sforzi, sentire che siamo un'unità. Il pianeta è uno, la diversità ci arricchisce, non ci minaccia. So che anche l'Europa ha le sue diversità su cui lavorare, a partire dalle differenze di genere, l'immigrazione, perché nel processo storico della colonizzazione del mondo è arrivato questo meraviglioso boomerang e adesso c'è gente di tutto il mondo lì, nel suo territorio. E questa è una sfida che può creare un mondo nuovo, meraviglioso, se voi lo permetterete. Importante è anche ascoltare la sensibilità delle donne e che noi donne ci impossessiamo di questa sensibilità che a volte abbiamo dovuto conquistare e difendere con le unghie e con i denti nel mondo del patriarcato e che a volte non ci è stato permesso godere di questo spazio di sensibilità. Meraviglioso. Se ustedes se lo permiten, no? E también escuchar por ahí la sensibilidad de las mujeres. Io riconosco che in un momento della mia vita di molta lotta nella città, che sono uscita da quest'asse come donna, però ho rincontrato la sensibilità lavorando con le comunità native, questa sensibilità, questo contatto con la madre terra, quest'altro modo di vedere il mondo, questa intuizione che abbiamo noi donne, quasi telepatica. Si tratta di ascoltare il cuore, imparare un nuovo linguaggio. Questo è antico, perché la tradizione dei saggi lo dice, però è anche nuovo perché adesso, con tutto il rumore mediatico, sociale, ambientale, l'inquinamento a tutti i livelli, ci troviamo davanti a una sfida molto più grande. Però siamo in tanti di più e sappiamo che il percorso è questo. Il cammino di incontrarci davvero con il cuore, che possono essere tanti, ma alla fine è solo uno, perché come dicono i popoli nativi, tutti torniamo alla madre terra e lì incontreremo anche questa espansione. La vita è la morte. La morte non è la fine di niente. Nelle comunità native e in questi popoli del mondo, nella mia provincia, la morte è parte della vita. I nostri antenati camminano con noi, ci accompagnano nella lotta, li sogniamo, ci appaiono i loro messaggi. Ecco che dare la vita per una causa significa espandere il cuore e compromettersi davvero. Questo è il mio messaggio di speranza, di forza, di impegno. E che veniate a conoscere questa realtà, questa madre terra come soggetto, che veniate ad apprendere questo nuovo linguaggio e che continuiamo a stare insieme in questa lotta che è fino alla morte e anche più in là della morte, perché lì non finisce, continua. Significa espandir el corazón, ¿no? Y realmente comprometerse. Así que bueno, eso, ese darles este mensaje de esperanza, de fuerza, de compromiso y de que bueno, que vengan a conocer esta realidad, esta madre tierra como sujeto, que vengan a aprender por ahí nuevos lenguajes y bueno, que sigamos juntos en esta lucha, que es hasta la muerte y más allá también, también, porque de ahí no se acaba, continúa. Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. Varias semillas para guardar y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Bentornate e bentornati in studio con Spazio Estate Viaggi. Avete ascoltato l'intervista a Veronica Ardenas, presidentessa della Fondazione Culturale Sebil, registrata a Salta, Argentina, lo scorso marzo. Ne approfittiamo per ringraziare Daniela Dello Russo, alias Cocò di Jet, che ci ha prestato la voce in italiano dell'intervista. Il pezzo che state ascoltando di Rebecca Lane si intitola Flores Rojas e parla di mestruazioni. La cantautrice guatemalteca ha scritto questo pezzo, uscito lo scorso febbraio, per demistificare il tema. In particolare si rivolge alle bambine preadolescenti, tra le quali sua figlia, in modo che possano avvicinarsi al tema senza nasconderlo. E dopo Flores Rojas torna la rubrica di Mirko, dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano sulla cultura dell'America Latina. Restate all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Que mi bienestar es cuando mi cuerpo aprendo a escuchar. Me tomo un té y me voy a acostar. Y pongo una peli para poder llorar. Escribo en mi diario para recordar lo que mis emociones vienen a enseñar. Ya no vivo en silencio lo que es natural. Con mi madre, abuela y amigas igual. Spazio Estate, Radio Onda d'Urto. Dagli Appennini alle Ande. Uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Oggi parliamo di Roberto Bolaño, il poeta cileno che ha reinventato l'arte del romanzo totale nel XXI secolo. Roberto Bolaño Ávalos è nato a Santiago del Cile il 28 aprile 1953. Figlio di León Bolaño, autotrasportatore, e di Victoria Ávalos, insegnante. Ha trascorso l'infanzia a Viña del Mar, dove ha compiuto i primi studi, e a Quilpé e Cacuanes. A Quilpé, all'età di 10 anni, trova il suo primo lavoro come bigliettaio su una linea di autobus che collegava Quilpé a Valparaíso. Nel 1968 la famiglia si trasferisce a Città del Messico, dove Roberto Bolaño trascorre l'adolescenza, concentrandosi sulla lettura, chiuso per ore nella biblioteca pubblica. Ben presto decide di voler diventare uno scrittore e inizia a lavorare come editorialista in diversi media. A 20 anni prende la decisione di tornare in Cile. Nei giorni precedenti il colpo di Stato di Augusto Pinochet, Bolaño si unisce alla Resistenza, ma presto viene arrestato. Dopo 8 giorni di carcere è rilasciato grazie all'intercessione di 2 detective, che si riveleranno essere ex compagni di scuola dello scrittore. A questo punto decide di tornare in Messico e dedicarsi completamente alla letteratura. In Messico fonda, insieme a un gruppo di poeti messicani, un movimento d'avanguardia chiamato Infrarrealismo e nel 1975 vede finalmente pubblicate le sue prime opere, raccolte nell'antologia poetas infrarrealistas mexicanos, poeti infrarrealisti messicani. Che cos'è l'infrarrealismo? L'infrarrealismo è un movimento poetico fondato in Messico nel 1975 da un gruppo di 20 giovani poeti, tra cui Roberto Bolaño, Mario Santiago Papaschiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina, Ramón Méndez Estrada, José Rosas Ribeiro e Dario Galicia. Gli infrarrealisti, noti anche semplicemente come infras, presero come slogan la frase del pittore cileno Roberto Matta: far saltare il cervello alla cultura ufficiale. Più che da uno stile definito, il movimento si caratterizzò per la ricerca di una poesia libera e personale, che rappresentasse la posizione dei suoi membri sulla vita, al di fuori delle convenzioni sociali, in modo simile a quanto facevano i poeti della Beat Generation degli anni 50. D'altra parte, le idee rivoluzionarie dell'infrarrealismo sono state sollecitate dalla profonda e giustificata angoscia dovuta alla complessa e mutevole situazione storica che caratterizzava la società messicana degli anni 70. Un'inquietudine forse esacerbata dal fatto che, poco dopo l'arrivo di Bolaño a Città del Messico, ebbe luogo il massacro di Tlatelolco, un evento a cui lo scrittore cileno accenna nei versi del manifesto infrarrealista. I massacri, i nuovi campi di concentramento. Sono tempi duri per la poesia, dicono alcuni, bevendo tè, ascoltando musica. Sono tempi duri per l'uomo, diciamo noi, tornando alle barricate dopo una giornata piena di merda e gas lacrimogeni. Dal manifesto del movimento infrarrealista. Secondo Bolaño, il nome è nato inizialmente grazie all'artista cileno Roberto Matta, che ha coniato il termine negli anni 40, dopo che André Breton lo aveva espulso dal surrealismo. Matta è stato quindi l'unico infrarrealista fino a quando il nome del movimento non è stato recuperato come corrente letteraria. L'infrarrealismo è legato al dadaismo, secondo le parole che Roberto Bolaño ha rilasciato in un'intervista. L'infrarrealismo fu una sorta di dadaismo messicano. A un certo punto c'erano molte persone, non solo poeti, ma anche pittori, e soprattutto pigri e fannulloni, che si consideravano infrarrealisti. Ma in realtà il gruppo era composto da due sole persone, Mario Santiago e io. Entrambi siamo venuti in Europa nel 77, dopo alcune avventure disastrose, una notte alla stazione ferroviaria di Port Vendée, nel Rosellón, molto vicina alla stazione ferroviaria di Perpignan, abbiamo deciso che il gruppo in quanto tale era finito. Nel 1977 Roberto Bolaño lascia il Messico e si reca prima a El Salvador, dove incontra il poeta Roque Dalton, e poi in Europa. Dopo aver viaggiato in diversi paesi europei e nel continente africano, decide infine di stabilirsi in Spagna. Non è stato un periodo facile. Era solo, senza documenti, aveva difficoltà economiche. Ha svolto diversi lavori: lavapiatti, cameriere, guardiano notturno, raccoglitore di rifiuti, scaricatore di navi, raccoglitore d'uva, finché non è riuscito a mantenersi partecipando a concorsi letterari. In seguito avrebbe trasformato tutte queste esperienze in materia di narrativa. Nel 1984, in collaborazione con Antoni García Porta, ha pubblicato il suo primo romanzo, Consejos de un discípulo de Morrison a un fan de Joyce. Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un fanatico di Joyce. Che ha vinto il premio Ambito Letterario. Nello stesso anno pubblica La Senda de los Elefantes, che vince il premio Félix Urabáyen. Due anni dopo si trasferisce nella città costiera di Blanes, vicino al Girona, dove, senza abbandonare l'interesse per la poesia, si concentra sempre più sulla narrativa. Lavora in un piccolo studio, ad appena 50 metri da casa sua, seguendo alcuni rituali essenziali. Musica rock degli anni 70, infuso di camomilla con miele e tabacco, tante, tante sigarette. Scriveva 3 pagine al giorno, se le cose andavano bene, fino a 10. Era molto attento alla struttura dei suoi libri e per questo li riscriveva spesso. Nel 1993 i medici gli hanno diagnosticato una grave malattia al fegato. Da quel momento in poi Bolaño divenne ossessionato dall'idea di lasciare un'eredità letteraria significativa e si dedicò ancora più intensamente alla scrittura, moltiplicando le sue pubblicazioni. Nello stesso anno vengono pubblicati Los Perros Románticos, I Cani Romantici, una raccolta della sua opera poetica realizzata tra il 77 e il 90, e il romanzo La pista del hielo, La pista del ghiaccio. Nel 1996 presenta La letteratura nazi in America e Estrella distante, e nel 1997 la raccolta di racconti Llamadas telefónicas, chiamate telefoniche, che gli vale il premio municipal de Santiago de Chile, il più importante del suo paese. A quel tempo avevo 20 anni ed ero pazzo. Avevo perso un paese, ma guadagnato un sogno. E se avevo quel sogno, il resto non importava. Né lavorare, né pregare, né studiare all'alba, insieme ai cani romantici. E il sogno viveva nel vuoto del mio spirito. Una stanza di legno, in penombra, in uno dei polmoni dei tropici. E a volte mi guardavo dentro e visitavo il sogno, statua immortalata in pensieri liquidi, un verme bianco che si contorce nell'amore, un amore sfrenato, un sogno dentro un altro sogno. E l'incubo mi diceva, crescerai. Ti lascerai alle spalle le immagini del dolore e del labirinto e dimenticherai. Ma a quel tempo crescere sarebbe stato un delitto. Sono qui, dissi, con i cani romantici, e qui resterò. Da I cani romantici. Seguimos chacarereando. Il 1998 è stato senza dubbio un anno fondamentale nella vita di Roberto Bolaño, che aveva appena iniziato a pubblicare con Anagrama. In quell'anno il suo romanzo Los Detectives Selvajes, I Detective Selvaggi, ha ricevuto 2 importanti riconoscimenti, il premio Herralde per il romanzo e il premio internazionale per il romanzo Romulo Gallegos, per la qualità dell'opera e per il suo approccio narrativo innovativo. Il romanzo, che si distingue per il suo umorismo sontuoso, raro nella letteratura scritta in spagnolo, narra le avventure di 2 uomini che si imbarcano alla ricerca di uno scrittore messicano scomparso durante la rivoluzione. I loro sforzi per ritrovarla dureranno dal 1976 al 1996. Poco dopo questo riconoscimento pubblico e dopo 25 anni di assenza, Bolaño torna a visitare il Cile. Da questa visita è nato un nuovo romanzo, un quadro allegorico del Cile di Pinochet, pieno di fantasmi, torturatori e coprifuoco, intitolato Notturno de Chile, notturno cileno. È definito dall'editore Jorge Herralde una piccola opera d'arte agghiacciante. Lo stesso anno in cui fu pubblicato Notturno de Chile, Bolaño era in lista d'attesa per un trapianto di fegato. La sua salute si stava deteriorando e decise di dedicare tutto ciò che resta della mia vita a quella che sarebbe stata la sua opera più importante, 2666. Consapevole dell'ombra che la morte aveva gettato su di lui, commenta Enrique Villamatas. Ha continuato a scrivere fino alla morte, avvenuta il 14 luglio 2003, a causa di un'insufficienza epatica. Pochi giorni prima aveva partecipato al primer encuentro de autores latinoamericanos di Siviglia. La sua ultima apparizione pubblica è qui. Aveva consegnato al suo editore il manoscritto del libro di racconti e il gaucho insufferibile. Nel 2004 Anagramma ha pubblicato 2666, il romanzo postumo di Bolaño, una pentalogia di oltre 1000 pagine, incentrata sulla figura di un enigmatico scrittore tedesco chiamato Von Arcimboldi, in cui l'autore mostra la sua grande varietà di registri letterari. Secondo il critico Ignacio Echevarría, si tratta del capolavoro dell'autore, un romanzo totale, senza sfumature intimidatorie o plumbe, che tocca grandi temi come la morte, il male o la trascendenza. Un'opera polifonica, dove i registri cambiano molto, dal poliziesco all'epico. 2666 ha vinto il premio Salambò, assegnato dagli stessi scrittori al miglior romanzo scritto in spagnolo, a stragrande maggioranza, secondo la scrittrice spagnola Rosa Montero, membro della giuria. La giuria lo ha definito come il riassunto di un'opera di grande peso in cui si può vedere il meglio della narrativa di Roberto Bolaño, un romanzo che contiene una grande quantità di letteratura, che comporta un grande rischio e che porta all'estremo il linguaggio letterario dell'autore. 2666 ha ricevuto anche il premio per il romanzo meglio accolto dalla stampa specializzata della Fondazione José Manuel Lara Hernández. Il farmacista gli rispose che gli piacevano libri tipo La Metamorfosi, Bartleby, Un cuore semplice, Canto di Natale. Sceglieva La Metamorfosi invece del Processo. Sceglieva Bartleby invece di Moby Dick. Sceglieva Un cuore semplice invece di Bouvard e Pécuchet. Che triste paradosso, pensò Amalfitano. Neppure i farmacisti colti osano più cimentarsi con le grandi opere, imperfette, torrenziali, in grado di aprire vie nell'ignoto. Scelgono gli esercizi perfetti dei grandi maestri. In altre parole, vogliono vedere i grandi maestri tirare di scherma in allenamento, ma non vogliono saperne dei combattimenti veri e propri, quando i grandi maestri lottano contro quello che ci spaventa tutti, quello che atterrisce e sgomenta, e ci sono sangue e ferite mortali e fetore. Da 2666. Nel 2004 è stato pubblicato anche Entre parentesis, tra parentesi, una raccolta di articoli, conferenze e altri testi, pubblicati su vari media e frutto dell'attività giornalistica e pubblica di Bolaño tra il 1998 e il 2003. Tra le opere dell'autore ricordiamo Amuleto, nel 99, Monsieur Pain, sempre del 99, Putas Assassinas, del 2001, un libro di racconti con personaggi estremi, Una novelita lumpen, del 2002, Amberes, sempre del 2002, ma scritto 22 anni prima, quando Bolaño, appena arrivato a Barcellona, lavorava di notte in un campeggio di Castel del Fels. Molte sono le opere di Roberto Bolaño tradotte all'italiano e tutte di grande valore artistico. Azzardo alcuni suggerimenti. Romanzi. La letteratura nazista in America, edito da Adelphi nel 2013. Stella distante, edito da Adelphi nel 2013. I detective selvaggi, edito da Adelphi nel 2014. 2666, edito da Adelphi nel 2009. Raccolte di racconti. Chiamate telefoniche, edito da Adelphi nel 2012. Puttane assassine, edito da Adelphi nel 2015. Raccolte di poesie. I cani romantici, edito da Sur nel 2018. Saggi e altro. Tra parentesi, saggi, articoli e discorsi 1998-2003. Edito da Adelphi nel 2009. E anche questa puntata di Spazio Estate Viaggi giunge al termine. In questo quinto episodio abbiamo ospitato Veronica Ardenas, presidentessa della Fondazione Culturale Sebille. La salutiamo. I saluti finali vanno anche a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici che ci hanno inviato i loro messaggi, anche audio, all'indirizzo Facebook e Instagram donpears.it. donpears.it. Continuate a scriverci e continuate a seguire Spazio Estate Viaggi in FM o sul sito www.radioondadurto.org. Il complesso cileno affisso sul muro. Mirko vi ha presentato Roberto Bolaño e tornerà la settimana prossima con la sua rubrica Dagli Appennini alle Ande, uno sguardo italiano alla cultura dell'America Latina. Io sono Giacomo e vi ho presentato Il viaggio in bici. Don Piers Spazio Estate Viaggi torna tra una settimana con una nuova puntata. Restate all'ascolto delle frequenze antagoniste del Gatto Nero. Di uno che si è perso. Canzone diversa, ma canzone d'amore. Cantata tra i denti, da cuore a cuore. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano. Ce ne andremo lontano. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano, se ne andremo lontano. Oh,